Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Fare di Laura Bettini e con Carlo Gabardini. Buongiorno a tutti voi ascoltatori di Radio 24, buongiorno in regia Carmelo Lauricella, Edoardo Lavezzari e buongiorno ovviamente a te in collegamento Carlo Gabardini. Buongiorno Laura e buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, buona domenica a tutti. Esattamente, buona domenica a tutti, una bella domenica di sole a quanto capito. Ci sono stati ieri sera diversi disastri in giro per l'Italia, ma oggi da un punto di vista meteorologico dovremmo essere a posto. Vero, ero pronto a risponderti alla domanda come stai, sto bene, che sto all'asciutto dopo il nubifragio milanese. Stiamo parlando di Milano, ovviamente ce ne sono stati in giro in tutta Italia. Ma seriamente a Milano avete avuto un nubifragio ieri? Tromba d'aria, così vedi? Si dice. Io invece che non abito a Milano non ho avuto niente, vedi cosa vuol dire abitare là nelle periferie, nella distanza. Si sta meglio oltre le mura. Bene, allora oggi è giornata di Indovinello, lo ricordo agli ascoltatori, quindi all'800 24 00 24 possono prenotarsi per indovinare il personaggio della settimana, che lo vogliamo dire ancora una volta, non è necessariamente un uomo il personaggio della settimana, né una donna, né un, può essere anche un avvenimento, un oggetto. Di solito facciamo sempre questo esempio, che a volte è stata anche la luna, per esempio. Esattamente, quindi ci sono tante varie possibilità. L'unica vera regola è che deve aver fatto deve essere successo nel corso della settimana, perché è della settimana, quindi quando ci chiamerete ci dovrete dire qual è il personaggio e motivarlo, e ricordatevi che se ha fatto qualcosa che appartiene al mese scorso, ecco, non è sicuramente quello. Adesso noi iniziamo sicuramente con gli indizi, però. Giusto. Il primo indizio è che ha subito un lutto per la Covid-19 e... questo è il primo indizio. Che cosa si vince? Bene, si vince un volume, il primo volume di una nuovissima collana che uscirà dalla settimana prossima, dal 14 di luglio, con il Sole 24 Ore, una collana che è dedicata ai ragazzi, che si chiama Il lato divertente di imparare, proposta editoriale con quattro ambiti centrali nel percorso di crescita e apprendimento: emozioni, linguaggio, pensiero logico, percezione del mondo e apprendimento. E quindi, insomma, chi ha ragazzini in casa o chi ha nipoti o chi ha bambini, insomma, cui può regalare questo volume, è la persona giusta per telefonarci e vincere. Ma in ogni modo è una lettura adatta anche agli adulti, perché comunque serve sapere un po' cosa gira o come gira la testa dei ragazzi. Quale libro, film, sceneggiato, che cosa ti ha incantato questa settimana? Allora, ieri abbiamo parlato di autoproduzione, ovvero come farsi in casa il dentifricio, il brillantante, lo shampoo, e a fine trasmissione ho pensato: ma se un anno fa avessi detto a mia sorella o a mio fratello, forse a chiunque, perché non ti produci con le tue mani il sapone per i pavimenti? Mi avrebbero probabilmente risposto: certo, ho due figli, ho quattro figli, lavoro già 11 ore al giorno, lavoro 16 ore al giorno, faccio fatica a trovare un buco per fare la spesa nel weekend, ci manca solo che nel tempo libero mi metta a fare il dentifricio casalingo e un secchio di crema mani da condividere con il condominio. Però poi ho pensato che il Covid un po' ci ha cambiato. Questo lockdown su certe piccole cose ha aperto spiragli, bisogna solo riconoscerli e non sbattergli la porta in faccia per richiudere subito tutto. Anch'io in questi mesi ho fatto cose che non avrei mai pensato e vi voglio parlare di una di queste. Oggi non consiglio libri o serie TV o film, oggi parlo di bruchi. Il mio fidanzato ed io, perché poi il motore di tutto è lui, come sa bene chi mi segue su Facebook e Instagram, abbiamo preso 3 bruchi, li abbiamo allevati, cibati per 2 settimane cucinando per loro nel microonde, poi li abbiamo trasferiti sul balcone, li abbiamo assistiti nel loro diventare crisalidi e poi li abbiamo visti trasformarsi in farfalle, dal vivo, in diretta, con i loro tempi. È stato emozionante come mai mi sarei aspettato. Esiste un sito che rende tutto ciò possibile, perché non penserete che io abbia fatto tutto da solo raccogliendo, non so, dei bruchi ai giardini pubblici. Il sito si chiama Smart Bugs e ti permette di acquistare dei kit per crescere e vedere evolversi diversi tipi di farfalle. Noi abbiamo scelto il Maca Kit perché il macaone è una farfalla molto grande, considerata una delle più belle fra quelle europee. Nel kit che ti viene spedito a casa si trova tutto il necessario per l'allevamento dei bruchi fino allo stadio di farfalla, anche il cibo di cui parlavo prima che va messo nel microonde. Poi ovviamente le farfalle vanno liberate, ma ve lo faranno capire bene loro, spalancando le ali coloratissime e picchiettando sulla piccola scatola trasparente. È una magia, è la natura, è una cosa che difficilmente dimenticherete perché la vedrete molto da vicino. E costa una 20 euro. Io le ho regalate anche alle mie nipotine, sono impazzite dalla gioia, ma anche agli adulti. Sì, io oggi consiglio bruchi, aiutano a capire quanto in meglio si possa cambiare. E mi piace molto, ma non me l'hai mai detto che tu avevi questo allevamento a casa. Ma com'è possibile che mai nascosto questa cosa? Io non so. Sai perché? Perché ti vergognavi? Lo confesso. No. Avevi paura che morissero. Esatto, l'ho raccontato anche sui social un po' questa questione mostrando queste farfalle, però è vero, sì, hai un po' quella paura. Io per esempio ne ho regalati 3 alle mie 3 nipotine, ho fatto questo errore perché ovviamente ognuna di loro si è legata a una dei 3 bruchi e poi purtroppo 2 bruchi non ce l'hanno fatta e quindi questo è un momento difficile, anche se è un momento secondo me anche utile, forse per spiegare che possono succedere, che può anche succedere che si muoia. In fondo è anche quello un argomento per il quale bisogna affrontarlo con i figli. Quindi sì, è vero, avevo un po' paura e perché non avevo nessunissima fiducia nelle mie doti di allevatore di bruchi, ecco. E vabbè, adesso hai scoperto invece di avere questo talento, di avere insieme al tuo compagno questo talento. Ma è veramente per tutti. Allora, invece vorrei portarvi su un altro tema che è un po' per tutti, anche se poi qui il volume che ne è uscito è molto particolare, molto bello, molto elegante, pubblicato da RVM Hub, insomma, però l'idea, diciamo, può essere colta da chiunque. È successo così nel 2015 che Ivana Marrone, che buongiorno, è già in collegamento con noi. Buongiorno a tutti. Nel 2015 ha trovato alcune fotografie, no? Foto d'epoca, di famiglia, però di persone a lei totalmente sconosciute, dico bene? Sì, esatto. Queste foto poi via via sono aumentate perché è diventata, immagino, anche una passione di collezionarle, cercarle, e poi immagino sia venuta l'idea di spedirle a scrittori, cantautori, giornalisti, persone che vedendo queste foto si sono fatte ispirare e hanno così dipinto, no, un quadretto verosimile, ecco, pur non sapendo niente di quelle persone lì, e alla fine è diventato un volume. Io trovo che sia bellissimo, bellissimo esteticamente, ma anche l'idea è fantastica. Ho detto bene, è andata così? Sì, è andata così. E in realtà io collezionavo foto d'epoca già da un po', per passione mia personale, senza esattamente sapere che farci, e per il gusto fotografico puro. Quindi una idea, che appunto un giorno nel 2015... questo mercatino in un quartiere di Roma che è Montesacro, mi sono fermata a parlare con il proprietario del banchetto, abbiamo un po' stretto amicizia, tanto che lui poi mi ha fatta sedere con lui tutto il giorno a guardare queste foto e da lì insomma, diciamo, è partita un po' l'idea, perché io stessa ho inventato una storia su una foto, perché poi di questo si Ivana tratta. Attenzione che la linea va e viene, quindi tenga bene il telefono, diciamo, vicino, non so. Sì, mi sentite? Sì. Forse sono in un punto in cui c'è poco campo, non so se Se mi sentite. Adesso sentiamo bene. E quindi, insomma, lei stessa ne ha scritte alcune di queste storie o già le scriveva così spontaneamente guardando le fotografie, immagino? Sì, è partita in realtà con una foto. Ho inventato la storia su una foto che aveva una dedica sul retro e da lì poi ne ho fatto semplicemente un post sui social. E da lì ho iniziato a pensare, perché no, farlo fare a tutti. E quindi ho iniziato a scrivere mail alle persone, diciamo agli operatori culturali che più mi piacevano, quindi dai cantautori, agli scrittori, giornalisti, insomma c'è un po' di tutto, chiedendo loro di inventare una nuova storia su quella foto che io gli assegnavo, e di massimo 400 battute. Questa era, diciamo, la piccola regola da mantenere, sì, perché doveva essere proprio una descrizione. Esatto, e nasce anche da questa esigenza, dal fatto che comunque si fa un uso delle foto abbastanza vorace in questo momento storico, e quindi, diciamo, quelle immagini bellissime che magari sono state fatte a fatica ai tempi erano lì e non erano di nessuno, e quindi unire un po' il mondo social in un certo senso con l'analogico bellissimo degli anni passati. E da lì poi ho iniziato a collezionare foto e collezionare storie, e ad oggi, diciamo, sul sito ce ne sono 130. E adesso poi c'è questo... Ma c'è qualcuno che si è lamentato? C'è qualcuno che ha riconosciuto la foto di famiglia della vecchia nonna o di una zia che ce n'è odiava una bella, moltissimo? Sì, è successo, ma non si è lamentato, perché mi ha scritto una signora che ha riconosciuto in una foto la suocera. Ha riconosciuto la suocera e la persona alla quale io avevo chiesto di adottare questa foto, che è una scrittrice sarda che si chiama Paola Soriga, ha inventato una storia ed era esattamente la realtà. La storia che aveva inventato Paola corrispondeva esattamente alla storia reale che poi mi ha raccontato la signora, che anch'essa era di Cagliari. Sono delle coincidenze incredibili. Molto belle dietro questa, erano due signore che passeggiavano per la Rambla di Barcellona, no? Era quella, esatto, era quella. E Paola ha inventato una storia su di loro, amiche, una figlia della borghesia, diciamo, cagliaretana, e l'altra amica, figlia della cameriera, che poi andava con lei durante i viaggi di affari. Ed era esattamente così, ed erano anche di Cagliari, nonostante non ci fossero riferimenti, diciamo, nella foto, se non appunto il punto di luogo in cui si trovavano. Le coincidenze non esistono. Le immagini raccontano molto, saperle guardare con attenzione. E Ivana, noi dobbiamo salutarci, ma io voglio ricordare appunto Ivana Marrone, autrice del libro Riscatti, archivio romantico delle foto perdute, pubblicato da RVM Hub. Lo potete, diciamo, prenotare. Ci sono anche, tra l'altro, tre copertine diverse, tutto un lavoro che, insomma, vi conviene scegliere con attenzione. Buon proseguimento e complimenti, Ivana. Grazie mille. Abbiamo la viabilità. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Inside. All'ascoltatore che mi redarguisce perché dico la Covid-19, sì, è la Covid perché è femminile. Il virus è una cosa, la Covid è la malattia ed è femminile. Ci sono state varie discussioni tra linguisti e medici, ma comunque la parola fine è stata messa, tra l'altro, recentemente, se avete voglia di guardare sui giornali, ed è femminile. Mi spiace, vogliamo parlare il virus è una cosa, la malattia è un'altra. Ma tu pensa, va bene. Comunque, ha subito un lutto per il Covid o per la Covid, dite un po' come volete, anche se è la Covid ed è il personaggio. Siamo entrati nel loop della TAV, TAV. Mamma mia, va bene. Comunque così uno si sveglia con la lancia in resta la domenica mattina. Parliamo invece di turismo a questo punto. Parliamo invece di turismo. La settimana scorsa ce ne siamo già occupati e ci torniamo. Perché come avevamo detto, l'ONU in particolare aveva scelto l'Italia per questo suo progetto Restart Tourism. Ha fatto tra l'altro i complimenti all'Italia, poi il segretario dell'agenzia ONU che si occupa specificamente di turismo, Pololikashvili, lui si chiama di cognome, ha detto che è un esempio l'Italia. Il segretario generale dell'ONU Guterres ha detto poi che il turismo può essere una piattaforma per superare la pandemia. Insomma, vogliamo fare un po' il punto di come è andato il tour per l'Italia e di quali strategie magari sono piaciute alle Nazioni Unite, con Alessandra Priante, che è la direttrice della Commissione regionale Europa del UN, che sta per Nazioni Unite, WTO, insomma, l'agenzia ONU del turismo. Buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, com'è andata innanzitutto questo tour che avete fatto, al termine del quale è stato detto che l'Italia, insomma, ha da insegnare qualcosa? Beh, il tour è andato, devo dire, molto molto bene e abbiamo incontrato veramente tutti gli stakeholders. In particolare la tappa romana, diciamo, è stata una tappa molto molto intensa, perché siamo atterrati, abbiamo consegnato il premio di sostenibilità all'aeroporto di Fiumicino, abbiamo proseguito, abbiamo incontrato Franceschini, Conte, Di Maio, le categorie, il sindaco di Roma e poi anche il cardinale Parolin. Poi quando siamo saliti a Milano, idem, sindaco e presidente di regione, la stessa cosa per Venezia. È andato molto bene, devo essere sincera, da italiana ovviamente, da poi persona che ha ovviamente spinto per questa ripartenza proprio dall'Italia, e fa un po' male perché comunque, insomma, Milano sta soffrendo, sta soffrendo, quindi... cioè fa proprio male. Le confesso che nel viaggio di ritorno in treno, perché mi sono fermata qualche giorno ovviamente per salutare la famiglia, di domenica mi sono fatto un'ora e mezza di pianto, perché è stato veramente duro vedere Venezia semivuota, ascoltare gli operatori che sono particolarmente preoccupati, nessuno capisce bene cosa succederà, se ci sarà una nuova ondata, cosa che continuerà a ripetere, quindi un nuovo lockdown. Diciamo che ecco, noi ce l'abbiamo messa tutta e ce la mettiamo tutta e lavoriamo solo per diciamo far capire che ci vuole un pochino più di fiducia in questa fase, e però insomma è comunque dura. E quali di fiducia in cosa? Ma la fiducia, guardi, è un'ottima domanda la sua, perché la fiducia innanzitutto deve esserci un pochino più di fiducia nel fatto che si può effettivamente andare in vacanza, si può ripartire. Io ho notato che ci sono molte persone ancora, se me lo consentite, traumatizzate, per cui la fiducia è rispetto al fatto che ora tutti i dati ci dicono che la situazione è un pochino più sotto controllo, ci sono tutte le precauzioni, in teoria a febbraio eravamo tutti preparati, ora siamo un pochino tutti più preparati, quindi noi stiamo stimolando a recuperare un pochino di fiducia nell'esercizio dell'andare a visitare posti nuovi, che comunque non è una cosa che ci hanno un po' escluso ultimamente, no? Sì, certo. Ci sono degli, diciamo, strumenti che magari le Nazioni Unite e la sua agenzia possono mettere in campo in questo periodo, anche come iniezione di fiducia? Assolutamente sì, ce ne sono tantissimi, l'abbiamo fatto sin dall'inizio. Allora, noi diciamo fondamentalmente due cose. Noi dall'inizio abbiamo cercato di fornire ai ai governi, che poi sono i nostri interlocutori, abbiamo cercato di fornire gli strumenti per analizzare la situazione, quindi valutare gli impatti e quindi prendere le misure giuste. Gli abbiamo provato a dare delle raccomandazioni in termini di priorità e di linee guida globali, cioè cosa fare in termini generali sui vari comparti del settore turistico, quindi ovviamente prevalentemente tutto il comparto privato, dal trasporto a tutta la, diciamo, l'ospitalità. E quello che noi stiamo facendo, perché riteniamo che sia una componente fondamentale, stiamo anche aiutando e supportando con una forte campagna di comunicazione, perché poi alla fine quella sta in questo momento risultando fondamentale, cioè basta una piccola notizia affinché un paese magari riblocchi i confini verso un altro. Quindi tutti in questo momento hanno una grande responsabilità. Quello che è un dato di fatto è che se fermiamo il turismo togliamo lavoro a 120 milioni di persone, perlomeno stiamo parlando dell'anno 2020, quindi stiamo parlando di pochi mesi alla fine, e blocchiamo generazioni di trilioni di dollari di esportazioni. Noi ovviamente misuriamo in dollari, quindi il settore del turismo è un settore comunque economicamente molto, molto importante, proprio perché è così largo, ha una catena del valore così espansa e quindi ha, insomma, degli impatti molto, molto importanti che non possono essere assolutamente tenuti in secondo piano. L'altra cosa che noi facciamo, se insomma lei giustamente ha ricordato che il mio segretario generale ha posto l'Italia come esempio. Dobbiamo lasciarci, però la ringraziamo davvero tanto, perché adesso abbiamo GR24. Alessandra Priante, grazie per essere stata con noi, buon lavoro, buon proseguimento con l'Agenzia ONU del Turismo. Arrivederci. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Nasceranno, cresceranno meglio, a Milano, nel Parco Nord, 10.000 metri quadrati di bosco edibile, 2.000 piante adottabili dai cittadini e l'organizzazione di tutto questo sta in carico a ET4, spin-off dell'Università di Padova, impegnata in progetti di valorizzazione del patrimonio forestale, ideatrice di Wow Nature. Cosa faranno e come lo faranno ce lo dirà tra pochissimo Lucio Brotto, buongiorno. Buongiorno. Che è il fondatore, per l'appunto, buongiorno, di ET4. Allora, come funzionerà tutto questo? Perché le piante già si prevede di metterle a dimora nei prossimi mesi. E soprattutto noi è incuriosito la questione del bosco edibile. Che cosa avete in mente di fare? Esattamente, quindi ogni persona, organizzazione, associazione possono adottare degli alberi che poi hanno una funzione molto importante, cioè quella di procurare, di fare riscoprire quelli che sono i prodotti tipici delle nostre zone che arrivano dagli alberi e che possono essere usati in cucina. Ma non solo per noi, ma anche una forest intesa come anche uno spazio anche dove anche gli animali possono trovare il loro sfruttamento insieme con l'uomo, cercando quindi di trovare un equilibrio tra uomo e natura. Ma nel dire edibile intendete dire che sono piante, appunto, alberi da frutto, o sono poi frutti che le persone che hanno adottato gli alberi potranno cogliere e mangiare? Allora, sono essenzialmente alberi e arbusti della nostra fauna, diciamo, della nostra flora autoctona, ok? Quindi immaginatevi il ciambuco, il ciliegio, il figo, l'acero, il prugnolo, che produrranno fiori, pacche, gemme, che potranno essere raccolti in momenti, diciamo, guidati insieme al Parco Nord di Milano. Ah, quindi guidati, non è che uno va lì e se lo prende, ecco, no. Ma diciamo che allora si fa in maniera esattamente, però potrebbe essere una fase quando le persone, a parte che sarà tra qualche anno, perché adesso se vengono, no, attento, ma adesso quando ci vorrà del tempo. Esattamente, quando sono un albero, un arbusto, ci vogliono almeno 3-4 anni prima che cominci a produrre, ma poi insieme a riconoscere quelle che sono le specie utili, bisogna anche capire come si raccolgono per non fare danni agli alberi. Ecco che quindi per i primi anni abbiamo pensato, insieme al Parco Nord di Milano, di dare la possibilità alle persone in maniera guidata di scoprire, di capire come si raccolgono e soprattutto come si usano in cucina. Certo. Ma non si possono piantare delle piante un po' più grandicelle? Nel senso che se partiamo dall'arbusto per arrivare alla ciliegia ci vorranno 20 anni? Allora, questo è, diciamo che nella prassi noi non abbiamo niente da inventarci, copiamo quello che fa la natura. La natura, per creare degli alberi forti, arbusti, parte dal seme, no? Parte dal seme, non parte dall'albero, certo, pronto da piantare. Noi possiamo anche piantare degli alberi, diciamo, vengono chiamati pronto effetto, magari da 3, 4, 5 metri, però questi alberi resteranno fermi, immobili, per almeno 5 anni prima di ricostruire le loro radici e saranno anche soggetti a danni da vento in maniera più facile. Mentre quando si parte dal piccolo albero, quel piccolo albero, quella viene subito la sua casa e ogni anno cresce di un metro, quindi in realtà ci sorprenderemo da quanto velocemente potranno crescere. Ah, allora questo mi sembra un dato molto interessante. Esattamente. È meglio piantare le piante piccole perché così si acclimatano meglio. Esatto, crescono poi dopo più salde e più solide. Dunque, le persone possono sovvenzionare, diciamo, queste piantumazioni e adottare gli alberi attraverso il portale, giusto? Esattamente. Oppure anche ci sono questi famosi Green Saturdays che si svolgono nei ristoranti del Svapore. C'è anche lì il collegamento per sostenere le piante del nuovo bosco edibile, giusto? Esattamente, diciamo che le persone, normalmente persone, aziende, cittadini, possono andare nel sito, scegliere l'area che preferiscono, in questo caso quello del Parco Nord, adottare la loro pianta e poi partecipare alle giornate di impianto. Ma abbiamo anche Del Svapore, che è una catena di ristoranti, che ha deciso di fare un qualcosa in più. Questo è molto importante, nel senso che gli alberi, sappiamo, sono le macchine perfette per lottare contro la crisi climatica, ma da soli possono poco o nulla. Ci vuole uno stile di vita anche nel food, anche nel cibo che consumiamo, più responsabile. Ecco che Del Svapore ha detto: bene, tutti quelli che prendono un piatto vegetariano il sabato, ecco, la metà, il 50% di quello che pagano va destinato a crescere nuovi alberi. Dunque, c'è già l'ascoltatore critico che dice: piantano le piante, poi nessuno le bagna. Ma no, credo che il Parco Nord occuperà di questo. No. Guardate, i cittadini milanesi sono molto fortunati, perché avere una organizzazione come quella del Parco Nord Milano, che è veramente fatta di professionisti che curano, crescono, appunto, noi non ci limitiamo a piantare gli alberi, noi abbiamo un approccio per il quale dopo l'impianto bisogna accudire, perché sono degli esseri viventi, sono dei, come avere un nuovo cagnolino a casa, un nuovo gatto o anche un bambino, no? Non basta fare l'atto iniziale, bisogna poi starci dietro. Ecco che il Parco Nord Milano fa almeno 4-5 manutenzioni all'anno dell'albero, e quindi per far sì che l'erba non vi dia fastidio, e 4-5 irrigazioni, in maniera tale che l'albero cresca velocemente, trovi subito spazio e possa andare e diventare un albero adulto. Io la ringrazio molto di queste informazioni. Grazie. Lucio, e non so, Milano mi sembra avviata a diventare una città tutta verde con tutti i progetti di piantumazione e riforestazione che ci sono. C'è anche è quello già, però è molto verde Milano, e migliorerà, tutti lo dimenticano, ma Milano è già molto molto verde. Però non tutti hanno il bosco edibile, qui ce l'avrete soltanto voi. Grazie a Lucio Brotto e buon proseguimento. E T4 la viabilità. Si può fare. Si può fare, si può fare, si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Beyond the borderline, dangerously fine, oh. Allora, abbiamo appreso che dal prossimo anno accademico l'Ateneo di Udine attiverà i corsi di laurea magistrale internazionale in Artificial Intelligence e Cyber Security per formare, così è stato detto in termini credo un po' troppo semplicistici, hacker buoni o anche etici. Di questo parliamo tra un istante con il professor Agostino Dovier, che è un professore del corso appunto di Artificial Intelligence e Cyber Security della Università di Udine. Gli diamo intanto il buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno. Buona domenica. A voi e agli ascoltatori. Professore, grazie, la teniamo un attimo in attesa solo perché giustamente mi ricordano che noi abbiamo in ballo la questione del personaggio della settimana, Carlo, e dobbiamo dare almeno il secondo indizio perché mi pare che ci sia ancora un po' di difficoltà a indovinare. Certo. Diamo il secondo indizio e poi parliamo di hacker, anche prima che gli hacker diano l'indizio. Diamo il secondo indizio, il personaggio che stiamo cercando ha fatto una dedica. Vi ricordiamo che i numeri sono 800 24 00 24 e basta, chiamate numerosi, il centralino vi attende. Allora, andiamo agli hacker cosiddetti buoni. Intanto, hacker buoni già fa pensare che l'hacker di per sé è sempre cattivo, non lo so. Secondo me invece hacker forse ormai ha assunto, no, questa idea che sia sempre cattivo, ma in realtà è uno esperto di... Ma in realtà di, l'hacker, no? l'hacker nasce buono, infatti sono molto curioso di parlarne adesso, perché in qualche modo l'hacker nasce per un'idea di software libero, quindi anche to hack nel senso di aprirsi un varco fra le righe di codice che istruiscono i programmi software, quindi... Sentiamo il professore, cosa volete, sì. Com'è questa cosa? Ma sì, diciamo, noi appunto cerchiamo di creare le competenze necessarie appunto anche a difendersi dagli hacker cattivi, e sostanzialmente queste persone che hanno queste competenze saranno quelli che possono essere definiti hacker buoni. Ci sono, diciamo, in questo contesto almeno tre tipologie di hacker: quelli col cappello nero, grigio, bianco; quelli col cappello nero, non li ho scelti io i colori, ma insomma, quelli col cappello nero sono quelli cattivi. Allora, sostanzialmente, se facessimo così un paragone con una cassaforte, attualmente i sistemi di crittografia, gli algoritmi per la crittografia, gli algoritmi per la crittografia, chiave pubblica, chiave privata, sono estremamente, estremamente difficili da hackerare, diciamo, in tempi ragionevoli. E quindi, se uno deve aprire una cassaforte e sa che non riesce a trovare la combinazione, cerca altri punti deboli, che potrebbero essere i cardini, potrebbero essere, non lo so, magari smontando le gambe si scopre che la vite sotto c'è un buco abbastanza largo. Ecco, questo è quello che fanno gli hacker quando cercano di attaccare i sistemi, cercano di scoprire le piccole vulnerabilità, piccole e medie vulnerabilità del software, dei sistemi operativi, dei protocolli di comunicazione di rete, dei programmi che stanno dietro ai browser che noi utilizziamo per collegarci in rete, e cercano a questo punto, questi hacker col cappello nero, di entrare e di prendere il controllo del sistema. Questo potremmo citare il sogno di Olmo, insomma, entrare dentro il sistema e prenderne il controllo. Gli hacker, diciamo, col cappello grigio sono un aspetto un po' intermedio. Loro ti mostrano che sarebbero in grado di entrare nel sistema, sarebbero in grado di aprire la cassaforte. Ti dicono: noi non lo faremo, ti mandiamo un video, ti mostriamo che siamo in grado di farlo, ma non lo faremo mai. In ogni caso, se ti serve magari un giorno una ditta di specialisti per migliorare la tua cassaforte o per comprarne una migliore, rivolgiti a noi, questi sono quelli grigi. Quelli bianchi, quelli col cappello bianco, quelli che sono al servizio appunto delle istituzioni, delle imprese, vengono assunti dalle varie aziende per rafforzare la sicurezza della cassaforte o del sistema, in questo caso parliamo del sistema informatico, e noi, certo, diciamo, in questo corso offriamo queste tecniche, offriamo una serie di tecniche teoriche, pratiche di vario tipo per poter analizzare se un sistema è buono, per migliorarlo, per progettarlo e in qualche modo per fornire sicurezza all'azienda per cui si lavora o anche all'azienda paese. Insomma, noi Infatti, visto che voi lavorate anche con, no, con il, cioè, si lavora anche col Ministero della Difesa, per fare un esempio, se si parla di... Sì. Sì, in questo momento, tra l'altro, abbiamo appunto un collega appunto di professore di Roma che è a capo dei servizi segreti in qualche modo, quindi diciamo un po' come successe durante la guerra con Turing, diciamo il matematico, quella volta non c'erano gli informatici, comunque quella volta il matematico, ora l'informatico comincia ad entrare nei sistemi anche di difesa del paese, in qualche modo, che siano militari, che siano contro il terrorismo o contro i furti. Cioè, pensate a un attacco hacker a metà marzo, cosa avrebbe potuto causare, insomma, quando eravamo tutti collegati su questa architettura informatica per comunicare, per andare a scuola, per fare qualunque tipo di attività. In realtà ormai tutto, adesso Carlo, so che tu avevi in canna una domanda, ti lascio subito, però dicevo, ormai tutto è collegato all'informatica, le reti elettriche, se uno arriva lì in realtà blocca tutto. Infatti. Si riesce a impadronire del sistema. In questo corso appunto noi cureremo questi aspetti di cyber security, parleremo anche molto di intelligenza artificiale, in particolare spesso si sente parlare di machine learning, ma non è solo quello l'intelligenza artificiale, quella è una componente molto forte. Sostanzialmente l'intelligenza artificiale, cioè, il premio Nobel dell'economia Kahneman ha definito un po' il ragionamento in due livelli, sistema 1, sistema 2, thinking fast, thinking slow, no? Noi quando vediamo un pallone che ci sta per colpire in testa, prendiamo un'iniziativa immediata, o lo schiviamo con la testa, oppure se siamo dei calciatori facciamo lo stop e lo rilanciamo. E quello è un ragionamento immediato, è molto vicino al thinking fast, è molto vicino a quello che fanno gli algoritmi di machine learning, che devono poi aiutarci nella vita di tutti i giorni. E thinking slow invece, quando dobbiamo prendere delle iniziative con un po' più di calma sulla nostra vita, l'acquisto di una casa, di un'auto, dove andare a vivere, pensiamo se succede questo, poi però c'ho questa controindicazione, poi c'ho quest'altra, e lì abbiamo bisogno di un sistema un po' più di ragionamento tradizionale, di ragionamento logico, assiomatico, quindi c'è tutta una parte dell'AI che si occupa di ragionamento automatico e rappresentazione della conoscenza e ragionamento automatico, ci sono queste due aree dell'AI. Questo corso interateneo, internazionale, in lingua inglese, insieme all'Università di Klagenfurt, nasce proprio con questo desiderio, mettere assieme le specificità delle due sedi. Entrambe le sedi hanno anche un corso di informatica tradizionale, noi ce l'abbiamo da 41 anni, uno dei più. Ho visto, infatti, in avete recentemente fatto festa per i 40, quindi adesso sono 41. Diciamo, meno male che abbiamo fatto per i 40, perché era quest'anno un po' non prima ci sareste COVID, riusciti. Certo. Senta, ma volevo sì. capire diciamo l'elemento di novità di questo corso, nel senso che lei giustamente ha spiegato il cappello nero, bianco e grigio. Se mi permette, il vero problema è dipende di chi è la cassaforte e che cosa c'è dentro la cassaforte, nel senso che se nella cassaforte ci sono delle cose che appartengono effettivamente a chi ha la cassaforte è un conto, se dentro la cassaforte ci sono i nostri dati che in realtà vengono venduti o che vengono usati contro la nostra volontà, e allora l'hacker buono è quello che la cassaforte la apre o che mostra il fatto che lì dentro evidentemente avvengono delle cose che non vanno bene. Quindi in realtà, se posso dire, uscirei dalla questione etica di hacker buoni o hacker meno buoni, nel senso che uno studia una materia, poi la scelta della sua applicazione, se etica o criminale, purtroppo è successiva, nel senso che uno può studiare chirurgia, anche chirurgia etica, e poi fare il serial killer, cioè questo non dipende, diciamo, dalla linea del... Però io quello che mi chiedo è qual è l'elemento invece di novità, perché è interessante, ovviamente la parola hacker per ognuno risuona in maniera diversa, può anche suonare appunto come interessante, che uno dice voglio capirla questa cosa, quindi mi chiedevo qual era, con parole semplici, perché comunque è pur sempre domenica e le scuole sono chiuse, se ci spiega qual è l'elemento di novità che si portano a casa gli studenti di questo corso. Sì, beh, diciamo che comunque alcuni degli aspetti che vengono illustrati in questo corso sono illustrati anche nei corsi di laurea magistrale in informatica, perché le basi comunque della programmazione. sofisticazione, della complessità, dell'ingegneria, del software, vengono forniti in tutti i corsi. In questo corso, diciamo, l'aspetto un po' interessante è innanzitutto la sua il fatto che coinvolge due sedi universitarie in due nazioni europee diverse. Siamo collegati molto bene, siamo a circa 150 chilometri collegati in autostrada via treno, quindi diciamo in un'ora e mezza, due ore si possono raggiungere le due sedi, e uniamo il corpo docente, quindi le specificità delle due sedi. Lo studente che si iscrive a questo corso ha modo di approfondire le conoscenze un po' più specifiche nell'area appunto della cyber security, che comunque al suo interno ha tantissime sfaccettature più applicative, più applicate, e inoltre il corso di laurea è disegnato in modo tale da aumentare il numero di crediti specifici in queste due discipline, mentre nel corso di laurea informatico generalizzato sono un po' più diluite, diciamo. Quindi uno innanzitutto è costretto o ha l'opportunità, meglio insomma, a seguire i corsi in lingua inglese. Farà un semestre a Klagenfurt e gli austriaci faranno un semestre in Italia, e quindi verosimilmente, ma comunque si ritroveranno più, esatto, a parlare inglese fondamentalmente, no? Sì, inglese, un minimo di tedesco, certo. Imparano due sistemi anche diversi di insegnamento, lo stile austriaco è un po' più vicino allo stile anglosassone, lo dico perché i nostri studenti spesso chiedono 7-8 appelli all'anno, loro tipicamente hanno un solo appello alla fine del corso, o lavavo la spacca, esatto, va bene. E quindi è così, dai, quest'anno si comincia, la ringraziamo molto professor Dovier, ricordo abbiamo parlato dell'Università di Udine, grazie, arrivederci, buona domenica. Buona domenica anche a voi. E diamo il benvenuto a Simona, che ha chiamato dalla provincia di Napoli per indovinare, buongiorno. Simona, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno, chi è secondo lei il personaggio della settimana quindi? Io ho pensato la cattedrale di Santa Sofia, che è trasformata in moschea nuovamente. Però non vedo il collegamento con la Covid, con la pandemia. Ah, era quello il collegamento. Il primo indizio che avevamo dato era subito un lutto per la Covid. Allora no. Va bene, dai. Ha fatto una idea, lei aveva pensato più al secondo e all'evento della settimana, che sicuramente è stato una grande novità. Grazie Simona comunque per aver chiamato e aver tentato la sorte. Solo esatto, e anche grazie di averci ricordato la questione di Santa Sofia. Ricordiamo che Santa Sofia non è più una cattedrale, in realtà è un museo, e che adesso si è deciso di trasformare in moschea, tornare moschea, perché in realtà, anche se era cattedrale, fu costruita come una moschea. Abbiamo una piccola pausa, tra pochissimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E rientriamo con un nuovo concorrente, anzi una nuova concorrente, si chiama Laura, chiama da Bergamo, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno. Allora, sentiamo un po' cosa ne pensa lei, chi potrebbe essere questo personaggio? Io ho pensato al figlio del medico morto per la Covid, che questa settimana si è laureato in medicina. Ok, quindi sì, ho capito, il medico, quello lombardo, giusto? Sì, sì, si chiama Stella, mi pare, adesso non mi ricordo il nome del ragazzo. Sì. Beh, con la precisazione del cognome non si poteva non assegnare, addirittura. Allora, il personaggio è proprio lui, vero Carlo? Con Massimo Stella, sì. Figlio del presidente dell'Ordine dei Medici di Varese. Ah, ecco. Deceduto all'inizio di marzo a causa del coronavirus, e lui si è laureato proprio adesso in medicina e ovviamente vuole continuare la carriera del padre, ma era già deciso evidentemente, non è che l'ha deciso nell'ultimo mese, però ha portato a compimento gli studi e si è appena laureato e ha intenzione di mettersi subito al lavoro, ha detto, ecco, una cosa di questo tipo, mi ricordo. Laura, complimenti, allora si porta grazie. A casa uno di questi volumi di questa nuova collana del Sole 24 Ore che esce questa settimana, quindi sarà una sorpresa per tutti, lei la riceverà direttamente a casa. E se ha bambini? Sì, vicini, due ragazzi, nipoti? Sì, figli, 12 e 11. Sarebbero un po' grandini secondo le previsioni, ma in realtà magari piace anche a loro il lato divertente di imparare. Grazie molte Laura, buon grazie, proseguimento, grazie, buona domenica. Abbiamo parlato di intelligenza artificiale, cyber security con l'Università di Udine. Beh, adesso ci spostiamo all'Università di Milano per parlare di un corso di laurea in cui l'informatica ha sempre una, no, grande parte, ma è informatica musicale. Ci ha molto incuriosito, vorremmo sapere un po' come funziona, cosa si studia, quali professioni richiedono la conoscenza dell'informatica musicale, ce lo dirà il professor Federico Avanzini. Buongiorno. Sì, buongiorno. Lei è referente, no, di questo corso. Allora, sì, esatto. L'informatica musicale io già l'ho scoperta, diciamo, grazie a Edoardo Lavezzari e Danilo Ditrani che lavorano a questo programma. Vorrei capire, posso dirlo banalmente, a cosa serve? Certo, è una domanda lecita. Ma dunque, intanto informatica musicale è un termine molto così generale che vuol dire tutto ciò che riguarda la rappresentazione e l'elaborazione di informazione musicale, che è un'informazione molto complessa, perché la musica è fatta da un livello, come si dice, fisico, cioè proprio il segnale sonoro che arriva alle nostre orecchie, ma c'è il livello simbolico, quindi la partitura banalmente. C'è il livello legato alla performance, no? come la musica viene eseguita, quindi questa informazione musicale è molto stratificata, è molto fatta da livelli diversi che vanno tutti compresi e legati l'uno all'altro, e noi ci occupiamo un po' di tutti questi aspetti, e quindi si va da strumenti musicali, digitali, sì. Ma stiamo parlando di composizione musicale, cioè di usare l'informatica per produrre musica e per produrre nuova musica, o stiamo parlando anche del fatto che l'informatica, come in tutti gli altri campi, peraltro è preponderante, quindi anche se uno vuole fare il fonico, anche se uno vuole produrre dischi dal punto di vista della produzione e non dell'invenzione musicale, ha bisogno di avere profonde conoscenze dell'informatica? Ma allora, sono tutte cose vere, però il focus del nostro corso di laurea è, come avete detto correttamente voi, è di essere comunque un corso di laurea di informatica, quindi la classe di laurea, per dirla tecnicamente, è quella di informatica. Quindi i nostri studenti sono informatici in tutto e per tutto, studiano tutte le discipline dell'informatica, quindi lo sbocco professionale non è, o almeno quello tipico, non è fare il tecnico di registrazione, ma neanche il compositore di musica elettronica, è quello di essere un informatico che lavora però in questo campo. Quindi dicevo, alcune aree di lavoro poi per i nostri studenti sono strumenti per la produzione musicale, ma dal punto di vista di creare questi strumenti, cioè di programmare questi strumenti, quindi costruire strumenti digitali, effetti digitali da usare nella produzione musicale, però dal punto di vista di chi li programma queste cose, di chi scrive il codice, certo, di queste applicazioni, diciamo. Ma per chi diciamo si iscrive è fondamentale conoscere già la musica, diciamo, tradizionale, sapere leggere uno spartito? È chiaro che tutti i nostri studenti in qualche modo arrivano al nostro corso di laurea perché hanno una grande passione per la musica, no? E quindi vogliono coniugare. Quindi non c'è neanche bisogno di chiederglielo, probabilmente lo sanno fare. Esatto, molto spesso no, esattamente. Però comunque non sono richiesti studi musicali tantomeno accademici, anzi noi abbiamo proprio un corso al primo anno che dà degli elementi di teoria musicale, di armonia e così via, insomma alcuni elementi di base che possono poi servire anche nei corsi successivi, quindi non si dà nulla per scontato. Ma lei diciamo personalmente suona qualche strumento tradizionale, la chitarra, sì, il piano? Io come tanti nostri colleghi, io sono diplomato in pianoforte qua a Milano, insomma fui diplomato in pianoforte tantissimi anni fa e anche tanti nostri colleghi hanno questo tipo di formazione. Quindi potete fare la banda delle scientifica e musicale. La banda del corso di laurea potreste mettere insieme magari. Sì, ci abbiamo pensato tante volte. Beh, quando abbiamo fatto l'inaugurazione del nuovo dipartimento, perché ci siamo appena trasferiti nel nuovo dipartimento molto bello in Via Celoria, abbiamo messo insieme un po' di band di studenti che hanno suonato durante la giornata di inaugurazione del dipartimento, una dimostrazione che tanti nostri studenti suonano. Bello, mi piace l'idea. Ma quindi in realtà stiamo parlando, adesso ho capito con più precisione, non stiamo parlando di musicisti, ma stiamo parlando di coloro che programmeranno dei programmi che poi useranno i musicisti, quindi è molto giusto che questi non siano dei puri informatici, ma che siano degli informatici che conoscano le esigenze di un musicista, perché se poi non conosci l'esistenza del semitono, effettivamente non lo prevedi, diciamo, nella tua schermata. Devi, mi scusi, devi un po' semplificata per i nostri ascoltatori. Sì, no, ma è proprio così, è proprio così. Infatti una caratteristica secondo me molto bella del nostro corso di laurea è che ha una grande apertura multidisciplinare, quindi ci sono tutti i corsi di base dell'informatica, però sono un po' compressi, diciamo, come numero di ore, di crediti, per lasciare spazio ad altri corsi di area più musicale proprio. E quindi ci sono anche dei studenti. Beh, insomma, noi abbiamo sì, ogni anno più di 100, in questi ultimi anni almeno abbiamo sempre avuto più di 100 iscritti al primo anno, che è un ottimo risultato per un corso di questo genere. Abbiamo un tetto di iscrizioni di 150 studenti all'anno, quindi abbiamo un numero programmato che non ci consente di andare oltre. Ci sono 50 posti liberi, all'anno. Lo dico per chi, quindi, per chi è in diciamo ascolto, 30, che ci sono 35, gli ultimi 50 35, posti liberi. 35, 34, sì. Stanno diventando 30. Sì, proprio mentre parliamo stanno andando via. Esatto. Vabbè, però poi dopo quanti strumenti si possono creare? Io non lo so, vabbè, certo, infiniti, come la letteratura, insomma, alla fine. Eh beh, sì, assolutamente. Poi adesso, diciamo, ecco, l'altra cosa che volevo dire è che poi non ci occupiamo solo di applicazioni strettamente musicali, perché ci sono tante altre cose che confinano con la nostra disciplina, dove troviamo applicazioni su cui lavorare. Adesso un esempio può essere l'audio 3D per la realtà virtuale e i videogiochi, questa è una tematica su cui lavoriamo. Certo. Oppure applicazioni assistive o dedicate all'accessibilità a persone con bisogni speciali, dove il suono può servire per tanti scopi terapeutici oppure per sostituire altre modalità sensoriali e cose del genere. Quindi diciamo la musica è il cappello sotto cui stanno tante altre applicazioni. Benissimo, io lo trovo molto interessante, penso, insomma, se ne capissi qualcosa magari mi scriverei anche, però vabbè. Allora, professore Avanzini, grazie molto per essere stato con noi, il referente. Grazie a voi ancora per l'invito. Del corso di laurea in informatica musicale della UNIMI, Università di Milano. Abbiamo la viabilità, ci ritroviamo tra pochissimo per il premio L'altro pianeta. Si può fare. Promo 24. L'atrofia muscolare spinale è una malattia genetica rara che comporta la progressiva atrofia dei muscoli volontari e il loro indebolimento. Si manifesta per lo più in età infantile, è la prima causa genetica di mortalità infantile, ma può colpire anche in età più adulta. Si trasmette per via ereditaria quando i genitori, portatori di malattia o di geni mutati, trasmettono entrambi la mutazione. Il riconoscimento dei sintomi, dai tremori e difficoltà nella deglutizione alle evidenti difficoltà motorie, gioca un ruolo fondamentale per l'efficacia della presa in carico. Prima è, meglio è. Rivolgiti al medico o allo specialista o visita il sito care.togetherinsma.it. si può fare. Cronache da un paese migliore. Premio L'altro pianeta. Per il premio L'altro pianeta ritroviamo Antoine Harel, cofondatore di Selectra Italia. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno, ci fa tanto piacere risentirla per questa novità, insomma, perché voi come Selectra insieme all'Unione Nazionale Consumatori avevate costituito questo gruppo d'acquisto che si chiama Sicuri Insieme, che voleva appunto acquistare sul mercato forniture elettricità e gas, giusto? Ma con una particolare richiesta. Qui non si trattava di fare un gruppo di acquisto semplicemente per spuntare il prezzo più basso su elettricità e gas per i sottoscrittori, ma quali altre caratteristiche doveva avere? Poi l'avete spuntata, l'avete trovato il fornitore. Sì, l'abbiamo trovata poi. E l'obiettivo è stato fin dall'inizio di trovare l'offerta, il servizio perfetto. Quindi non solo l'energia elettrica e il gas a prezzo competitivo, questo era la base, però era solo il primo passo. E quello però lo fanno tanti, diciamo così, non tantissimi, non ci avreste convinto. Quello che ci è piaciuto è tutte le altre richieste che avete messo in campo. Sì, allora, la seconda richiesta è stata di avere un'offerta che sia verde. Sì, per l'energia elettrica, l'abbiamo visto insieme, è una cosa anche abbastanza facile grazie alla disponibilità di energia elettrica da fonti rinnovabili, ma anche per il gas. E su questo ci siamo riusciti trovando un'offerta che include anche la compensazione delle emissioni di CO2. Quindi questo è l'aspetto verde, che per la luce e per il gas. Altro aspetto, sempre a livello ambientale, la consapevolezza, quindi il fatto di accompagnare gli utenti, i clienti che sottoscriveranno l'offerta, non solo, quindi accompagnare le bollette con una comunicazione che gli permette di capire meglio come funziona il mercato energetico, dare consigli su come ridurre questi consumi. Quindi questo è un altro aspetto, rafforzare la consapevolezza. E, quindi che comprendesse anche una sorta di formazione, ecco. Sì, esatto, perché con Selectra ovviamente tutti i giorni scriviamo di energia, di come capire la bolletta, come risparmiare, quindi cambiando la tariffa, ma anche come ridurre i propri consumi. E quindi è questo lavoro di educazione al risparmio energetico che abbiamo voluto trasmettere con questo gruppo d'acquisto Sicuri Insieme. Quindi questo è l'obiettivo per quest'anno, e partiranno le prime comunicazioni mirate prossimamente. Benissimo, allora quindi voi avevate posto questi paletti e avete poi selezionato un fornitore che è Illumia, si chiama. Esatto. C'erano tanti, diciamo, concorrenti, oppure comunque già il fatto di aver posto così tanti paletti ha ridotto il numero in maniera consistente? No, c'è stato un prima di tutto abbiamo fatto un grande lavoro per avere il numero di iscritti più alto possibile in collaborazione con gli amici dell'Unione Nazionale dei Consumatori, e abbiamo raggiunto un bel numero di iscritti. Dopodiché siamo andati con questo bagaglio presso i vari fornitori, e ci sono tantissimi fornitori interessati, capaci di rispondere alle nostre richieste. Non sono tantissimi, però comunque parliamo di 5, una piccola decina di potenziali fornitori con cui abbiamo avviato una discussione, proprio una vera gara alla fine. E quindi diciamo che è stato un processo molto, molto utile per identificare proprio la migliore offerta che sia conveniente e anche con tutte le tutele di sostenibilità e anche di qualità del servizio. Ma diventa molto conveniente rispetto alla media esterna, oppure valgono di più, no, le caratteristiche green, le caratteristiche di formazione, e quindi comunque non ci discostiamo poi da un prezzo medio dell'energia e del gas? Allora, diciamo che i prezzi dell'energia adesso stiamo vivendo un periodo un po' particolare, i prezzi sono molto, molto bassi, quindi questo sicuramente ci ha aiutato ad identificare un'offerta che, pur essendo verde sia per la luce che per il gas, sia con un ottimo servizio e una garanzia che nel lungo andare questa offerta Sicuri Insieme rimarrà sempre verde e competitiva. Malgrado queste caratteristiche stringenti, i prezzi che ci ha proposto Illumia rimangono prezzi molto molto competitivi rispetto al mercato e diciamo ai prezzi dell'energia a cui siamo abituati in generale. E quindi questi sono prezzi ottimi, fissi per un anno. Quindi uno deve pensare alla benzina oggi che costa 1,30-1,35 euro. Questa offerta permette di fissare questo prezzo basso per i prossimi 12 mesi. E per quanto tempo? Il petrolio continua a scendere, quindi se uno lo fissa. No, ma comunque, a parte questo, le volevo chiedere una cosa: ma se io volessi partecipare, posso entrare in questo gruppo e anch'io usufruire di questa offerta che voi avete trovato? Ormai è pure chiusa. Allora sì, le prescrizioni sono chiuse, però ovviamente l'offerta che abbiamo concordato è sottoscrivibile entro il 31 luglio e quindi assolutamente tutte le persone interessate che vogliono diciamo avere un non solo consumare energia ma farlo in modo più consapevole e sostenibile, tutti possono sottoscrivere l'offerta entro fine mese. Quindi insomma gli spazi comunque una cosa importante è che il gruppo è un gruppo che è destinato a durare anche nel lungo periodo. Sì, infatti ho visto quindi sul sito di Arera insomma che voi siete il gruppo resta ed è autorizzato diciamo in maniera illimitata, non ha una chiusura questo gruppo Sicuri Insieme. Sì, sicuramente è stato riconosciuto dall'Arera e una particolarità di questo gruppo è che allo scadere dei prezzi di cui ho parlato adesso dei 12 mesi il rinnovo, le condizioni contrattuali rinnovate saranno sempre concordate tra Illumia da una parte e Selectra e l'Unione Nazionale dei Consumatori dall'altra, okay. In modo tale che sia sempre conveniente per te. Esatto, che sia tutto sotto controllo. Ottimo. Grazie Antoine Arel, buon lavoro, allora buon proseguimento e complimenti per aver portato a termine questa caccia al fornitore con Sicuri Insieme e come diceva poco fa appunto l'Unione Nazionale Consumatori, un gruppo costituito. Grazie. Allora, grazie mille a voi. Buona giornata, buon proseguimento. Carlo, io mi sono riservata l'ultimo minutino per così salutarci questa volta con più agio, senza che Carmelo Lauricella ci tronchi, perché giustamente ci fa rispettare i tempi. Anche per dire che la settimana prossima ci prendiamo un weekend di ferie, però c'è una puntata tutta nuova che vi aspetta. Non c'è niente di no? Esatto, non riascolterete alcunché. Ma non riascolterete, non è un best of, ma sono due puntate originali semplicemente registrate perché così possiamo muoverci da questa città. Esatto, muoverci da questa città, uscire dalle mura e vedere cosa c'è al di là della Lombardia, magari, chi lo sa, ma non so se oserò tanto. Carlo, allora buon proseguimento, buona domenica, cosa facciamo? Ci salutiamo, sì, e ci rivediamo tra 15 giorni. Sai che forse potrei venire questa volta? Potrei dirti forse questa notizia, forse potrai essere in persona alla fine di luglio. Ma io lo faccio volentierissimo anche da casa, ma ti vengo volentierissimo anche a trovare. E però ricordiamo che settimana prossima comunque andiamo in onda come sempre 8:30-10, sia il sabato sia la domenica, e poi le ultime due puntate invece fra due settimane, sempre 8:30 sabato e domenica. Allora, grazie Edoardo Lavezzari, Danilo Di Trani, Carmelo Lauricella, come dicevo, da Laura Bettini, un buon proseguimento d'ascolto su Radio 24. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it.